passando fuori, poi qualcuno va a questo pietro, e così che già sono io, che avevamo noi. Adesso a noi, che non si, questo perché, si sta andando, io la stessa cosa, io avevo sempre il telefono appreso come quando lavoravo e mi chiamavano ogni 5 minuti, già dove sei, già dentro questo, già di là. Alla fine il telefono lo prendevo come arrivavo a casa, lo mettevo dentro il cassetto, lo spegnevo, lo mettevo dentro il cassetto e gli amici mi dicevano, ah, sto telefonato, che non rispondi mai. Perché io del telefono ero tutto esausto, adesso lo stesso come te, dopo un po' di anni sto riprendendo a usarlo. Però WhatsApp mi serve, perché a me la dottoressa per dire mi manda le ricette, c'è la dottoressa che il veterinario manda le ricette su WhatsApp, tante cose, numeri, eccetera, eccetera. È un metodo di comunicazione a me WhatsApp, non è che sia una cosa brutta, poi per quanto riguarda quello che dice Gianfranco, non è che tu ti devi esporre, devi mettere il ballo a casa, mandare fotografie, se tu non vuoi mandarle non le mandi, sei libero di non mandarle. Ma guarda Gianni, adesso su certe cose, diciamoci la tutta, non si può parlare così, soprattutto via radio, capiscimi al volo, tu sei rimasto al concetto delle cose che si possono fare e non si possono fare, è di lì che manca la tua libertà, quello che si può fare o non si può fare sul tuo telefonino non lo decidi tu, lo possono decidere tranquillamente gli altri. E tu neanche ti immagini, perché non sei nel settore, tutto quello che si può fare entrando in quel telefonino che ogni giorno ti porti appresso. Tutto lì. E non è detto che è solo perché c'è WhatsApp o Facebook o tante di quelle scemenze lì. Anche a me me le mandano le ricette, me le mandano via email. Ed è la stessa cosa. Con la differenza che le mail sono spesso criptate con un livello molto più elevato di sicurezza e sono molto più gestibili, capito, sotto quei profili. Quindi non sono due cose diverse. Poi tu parli, devi essere moderno, quella non è modernità, quella secondo me è anche ottusità, perché tu, io lo sai, sono sempre in ascolto, hai confermato che che le transazioni, ad esempio, praticamente fai solo acquisti con pagamento in contanti, o addirittura col pagamento tramite alla consegna, ecco. Mentre invece io ne faccio tantissimi da acquisti, ma tanti sul serio, e sono tutti tramite pagamento, diciamo tramite procedure di pagamento telematico. Quindi io mi fido e fregature non ne prendo, perché so come farle. Tu per una volta che magari le hai fatte, fanno fregare. Quindi non è una questione di modernità, è una questione di sapere usare gli oggetti, perché molta gente, il problema anche di molti ragazzi, è che sanno operare con le tastiere, con i telefonini, in una maniera velocissima, però non sanno neanche quello che stanno facendo. Se poi le dici, ma sai cosa hai mandato in termini di bit, in termini di codifica, eccetera, e cos'hai? Ti dicono, boh, è così. E vabbè, già fatto, c'è il suo mestiere, si è addentrato quel campo lì e ne sei certo di più di uno che ignora certe cose, ignorante nel senso buono, che ignora certe cose. Lo so, io però ho avuto una bruciatura di 200 euro e 200 euro me li ho lavorati, capito? E non voglio ricadirci. A me il contrassegno mi va bene e questo sono un po' tentennante. Ne ho fatto anche qualcuno in bonifico, eccetera, eccetera, che con questo sì, però sono un po' tentennante a farmi, capito? non guardi i federbecchi, quelli, il punteggio che ogni venditore ha e l'affidabilità soprattutto. E adesso le cose sono anche molto cambiate, perché il diciamo anche Amazon, eBay, eccetera, hanno delle procedure molto molto rigorose, perché ovviamente è nel loro interesse che tutto vada bene, perché se fosse una fregatura all'indomani vanno in fallimento, ecco, la sostanza è quella, sono i primi a vigilare. Tutto lì. Avanti, Bruno. Io devo lasciare, forse è anche quello che mi fa, tanto il lavoro, rimpiazzare tutto con altri sistemi più moderni, e questo non è in termini di decenni, ma è oramai diventato in termini di anni, quindi ogni due anni, ogni tre anni, e dopo tre anni tutte le cose che si hanno diventano obsolete, proprio vecchie, che non valgono niente. Quindi è una cosa un po', quando inizi a stancarti, ma sei stancato d'uno probabilmente, a perdere colpi, perché lo sappiamo, a una certa età poi è duro mettersi a correre, e quindi inevitabilmente rimani indietro e giustamente devi dare spazio ai giovani che sono più bravi di te, hanno la memoria più aperta e quindi è così. Quindi noi da bravi ce ne ritardiamo qua in 27. No, in realtà io rimango molto moderno, sono tre pochi che continuano a intignare sui sistemi digitali, cosa che non ho visto da molti radioamatori, è veramente vista come la peste. In realtà danno tante belle possibilità, però sai com'è, sono fatti così. Ok, riprendi Bruno. Una cosa che è una cosa

diciamo, quando arriviamo tardi non abbiamo più da dire, il fondale, insomma, c'è anche la pagina sopra. E se lo ringrazio troppo, Manini, qui ora sotto casa c'è la pizzeria che fa anche fritti, tipo, che ti posso dire, calamari fritti, patatine fritte, i puntini primavera, tutta questa roba qua, polpette fritte, passate queste cose qua, oltre a fare le pizze. E l'altro giorno, prima c'era la mappa a casa, mio figlio, ci prendiamo qualche cosa così pronta, va bene. Telefoniamo da 140 grammi e gli chiedo una porzione di calamari e una di patatine. Ho detto, come sono le porzioni per due? Vanno bene? Sì, vanno benissimo. Bru, sono venuti con queste due maschettine piccole, non bastavano, ma comprano una persona, non solo per due. Le calamari ce le ha fatti pagare 12 euro, che non si vedeva nemmeno la confezione. Alla fine ho chiamato questo che c'è giù sotto casa, me l'ha portato una confezione bella grande e mi ha fatto pagare 5 euro, capito? Questo è il bicchiere, io non costruisco, grazie, è andato di là dopo questo costa a lui, è andato di là. Ma io ti dico la verità, raramente, ma forse non era successo, quindi perché sono un po' peso, un po' tanto, io sono stato fuoriuscito, ma vado in italiano, se non dico io, sarò un po' spontaneo, non ho niente di scritto e di accesso da altri, ma se dovessi insegnare qualcosa, sono le tuffe, calzone, mi sta anche sfruttando un pochino una cosa, perché un giorno sono andato in una pizzeria, se non ho pensato un pochino, non ho pensato in pizza, ma che famiglia non è, in questo paese, parlando di stamattina, non si può andare a fare. E ti dico una cosa, che dall'anno scorso, che si è sentito a io non sono più andato neanche a mangiare, più in un ristorante, tutto lì, io non sono andato più a mangiare, mi dispiace, purtroppo. Perché un po' tutti noi questa paura del comunque, e comunque non sai cosa posso, non lo fa, non lo fa, non lo fa, in un bar, a bere un caffè, perché quando vedo il caffè di tutti i luoghi, e tu le dai, già non lo puoi fare, è un casino, perché se sai, se tu cosa fai, metti tutto un altro plano, tutto, devi fare, è proprio come, Ecco perché ultimamente non sono tutto il mondo. E ripeto, il preso di pizza, ho andato a ritirare, ho andato a pagare in questo periodo la mattina, io ho finito di andare. Però bisogna proibire, è una campana di vetro. Io dico la verità, io sono andato al ristorante, ho mangiato anche, però ho mangiato fuori, nella veranda di fuori dove c'era la gente molto distanziata e c'erano anche poche persone fuori. Noi abbiamo mangiato fuori e niente, io grazie a Dio fino adesso sono sano. E poi la verità, sto evitando anche io di andare in posti dove ci siamo accalchi di gente. Siamo scesi a Portotolis l'altro giorno, siamo andati al cristallo a farci una cosa con la mia compagna e praticamente non si poteva entrare, cioè era pieno fuori e dentro, ce ne siamo andati, siamo andati in un bar dove c'erano i tavolini fuori, erano liberi, c'era poca gente, ci siamo andati. Anche se tu devi divulgare alla vaccinazione, all'altra popolazione, non per quello che non te lo fa. Io, se vuoi, non la faccio per il suo lavoro. Ecco, non c'è il tempo di fare la vaccinazione, non c'è il tempo. Già, lui, non la faccio, se io gli ho fatto, da qui ho fatto la vaccinazione, non c'è il tempo. fuggire come in pedale. E quindi con la velocità media di tutto questo, noi abbiamo un segno. Io ve l'ho detto, se non fa attenzione, capito? Non fa la pensione, se non prende più aria, non si cambiano gli altri, non devo fare la lavorare la prossima testata. Perché veramente, guarda, una cosa... Faccio una certa cosa, non so la vista, ma... Non so fare come tra le otto, il primo aveva la cara pezzi, aveva la cara cambiata, avevano spostato tutto e ci avevano messo, il giorno prima ci hanno messo la faccia a me. Sono io dico la verità, ho paura anche ragazzi. Perché la gente così, io vado troppo a gente tranquilla, tuttora, dentro di ospedale, gente non va a finire, ma stiamo scherzando. Ma guarda che sono avere paura, la gente è pazza. A parte cosa ho visto, dunque, non ho gestato, io c'è la pandemia, sono entrato tre volte sulla frattura, vedi? E come fanno tutto, se adesso ho visto delle cose che fanno tutto, perché aspetta, non fanno le balle, mi ripeta, ci metto la mascherina, fa qua, fa là, si calzare, mi hanno vestito da astronauta. Poi sono entrato lì e uno di questi che dovevano fare l'intervento non aveva la mascherina, ma l'altro era fattura. A me lo cacciamo. Poi ci sono dei tassi. Bru ha ragione pienamente, ma io sia nei bar, anche prima della pandemia, non potevo tollerare che lavassero solo, sciacquassero le tazzine con l'acqua e basta. Dopo che ci hanno bevuto tante persone, ci guardano i blusi, ci guardano i litiganti al bar. Cosa ne so io, cosa c'hanno, cosa non c'hanno, se c'hanno l'AIDS, se c'hanno altre cose, malattie che ti possono contagiare. Le sciacquano così e basta, non le lavano con la lava scolpiglia, ma con barricato. Per fare prima una sciacquatina, bicchiere via. E tu stai bevendo un bicchiere di un altro che ci ha appena bevuto. Non lo vedo molto igienico da quel punto di vista del bar, anche io. E anche il fatto del ristorante sono come me, penso sempre a ciò che mi raccontavano degli amici che lavoravano nel ristorante, che facevano dispetti ai clienti. Questo qui una volta dice che ci ha sentato nell'insalata qui, e è andato questo qui e ha detto, chi è che ha fatto l'insalata tutti i clienti? L'ho fatta io, perché? Era molto buona, complimenti, è veramente buona questa insalata. Tutti ridendo. E facevano scherzi così alla gente che non potevano vedere, capito? Fanno cazzate, e poi gli hanno fatto la roba e la vendono un'altra, un'altra persona che la richiede. Insomma, fanno cazzate grosse, roba scaduta, la mettono in mezzo lo stesso. Quindi non è che se il ristorante è serio ti puoi fidare. Io guarda, quando vado in ristorante vado sempre a Porto Torres, al ristorante San Gavino, lì mi trattano bene a palma di mano, c'è un servizio con tutto rispetto, sono molto gentili, io conosco i proprietari, mi hanno sempre trattato bene. Questo giorno sono venuto a andare lì a Berlino, sono andato da una mia chiesa, vedevo se sono tentato e ha fatto tutto. Ma io ho detto, io vado solo in locale che conosco, e guarda che non era da andare alla vettura, dove si può uscire, se non conosco il locale, chi si lavora, non è forse tanto, perché ieri ho visto il corso, io pensavo che per 30 anni non viaggiassi, non viaggiassi da tutto, se io non andavo a vedere da tutto, se non andavo a vedere da tutto, io ho viaggiato moltissimo. E conoscevo tutti i locali, io vado a vedere, non so andare a mangiare, però la sento, non so andare a mangiare, e dire, perché conosco, andavo sempre con questi lì, o con questi che erano gli amici di quella zona, o che conoscevo i proprietari. Però io ripeto, non vado mai a portare con il mio, adesso mi sono andato a fare con il mio, non ho fatto un po' e mi dispiace anche perché la gente non lavorare, però non so la gente che sta pregando, e non fanno rispettare le regole, perché sono molte volte che passa, perché siamo noi. Ah, mi faccio a fare tutta una cosa che mi facciamo dire che non stiamo gli appunti, se non si fa fare un tanto, vuol dire o l'altro, non serve a niente, non serve a niente da volta. chiusa, ha detto che si chiusa, insomma non siamo più a funzionare, non so, troppo, come ho detto, questa cosa, è stato anche perché quando è ancora la famiglia sotto, perché quando aprile, anche maggio, quando c'era questa giusta malattia, io volevo gente che noi lavavi, e faccio la festa, faccio la decisione, la temperatura, faccio il portale, faccio il garage, faccio il tavolino, faccio la faccia, il giorno di tutto, faccio la mia salienza, grande di tutto. E non so perché mi ha dovuto chiudere le dita, perché una volta in particolare, quando ho detto, questo garage non stava mangiando per esempio, io lì, questo è stato bene, ma io chiamo il carabiniere perché ci facciamo stando all'inizio, perché non si vogliono fare queste cose. No, no, noi mettiamo qui la strada, io faccio molta attenzione. Anche noi se torno anche a buttare, che vedo qualcosa, come dice il giorno, un imbecille giornalaio che stava entrando, non mi dietro perché mi sono la mascherina. Se ti fai il cazzo in due, mi... E cosa ti fa la mascherina? Ma ci togliate me ne devo andare? Sì, dai. E così con lui non lo trova di più. Tu, Bruno, non sai il periodo della pandemia quanta gente ha spolverato i vecchi apparati? Sono entrati i vecchi CD, di tutti di più. Ma c'era un po' di gente nuova che stava entrando e poi invece ne hanno messo tutto da parte di nuovo, perché hanno lasciato la via libera, che hanno fatto anche male. Secondo me, se dalla prima volta ci fossimo stati un po' di più a casa, avremmo risolto il problema, magari in parte, però l'avremmo risolto. Adesso se ne fregano, beh, ci sono greppi vicino a casa, tutti quanti si stanno a schierire, ridendo, scherzando, mettendo musica. Noi ti ho chiamato anche i vigili una volta, che non ci sono venuti, più di gusci di qua. Buonasera a tutti e a tutti, a tutti in generale. Chi è l'altro amico che non ho capito? Buonasera a tutti. Antonio Bombardo, questa parte. Ciao, tu, hai sentito cordialità. Ti stanno mettendo la portata, ma qua non si fanno niente. È 9:30 la portata. No. Facciamo i bravi, se no attacco il lineare. Ciao, sotto filocchio di merda. Aspetta un attimino, dai. Ciao Luca, ciao Presidente, ciao anche Antonio. Sono in compagnia di Bruno Ragano, avanti. Sono presente, sto scendendo la passeggiata della città e devo fare un attimo di tutto. Vediamo qui, che vediamo. E gliela fai pure là. No, continua a parlare, intanto ci sono vigili che ti vedono. Ma aspetta, il pericolo di scenario, ma li prendo la casa, no? Ehi Bruno, sai cosa c'è? Io quando modulavo dalla macchina c'avevo l'amplificato, lo mettevo sul sedile del passeggero e parlavo, guidando e parlavo, non mi vedeva nessuno. C'avessi, se mi piacchi un culo, va, metti la portante, dai, metti la portante, ciccino, dai. Non ti passava quanto prima, poco, peccato di venire a c'è energia, non ti passava. Mi passa Eddo, no, ma magari da Luca mi dà fastidio. Luca, la portante mi dà fastidio da te. Luca che ritorna a casa, che sta andando via, dai. A cargimi un po' le mani, a scaldarmi un pochettino le mani. Vai a piagarmi lo culo, cosa passa a me, passa Eddo. Deve attrezzarsi ma passa a me, e se no arrivo a più un anno a vedere se mi gira ancora le balle. Sì, ma frega, se ne non mi dare retta, tanto da soddisfazione sì. E vabbè, va bene, un poco di freddo ha già atteso, dai, che va freddo in occhio. E dopo ti viene Lucato quando arrivi la bulletta. Ma cosa, ha 12 volte, non fa niente. Questo c'è lo stesso, tu, non è che perché ha 12 volte che non consuma. C'è un minimo consumo, ma c'è... Sì, non li fa niente, non li fa. Non li fa niente, non ti preoccupare. Cappa. La massa che ti ne varia. Oh, yeah. E quanto ti arriva a fondo scala? 9.30 arriva quello lì. Io quando arrivo, non ve più. E allora, sei con lo scarso. Bisogna provare lontano, tanto vedere se rende. Rende, non ti preoccupare che rende. Rende, tranquillo che rende. Questo che linea è? 347. Con quanti watt lo stai pilotando? 4 watt. Perché sei leggermente sciatto? Ma leggermente, non assai. E quello non lo so perché, però ho preso pochi watt dell'apparecchio, è l'apparecchio omologato, cavolo. Quando gridino, quando invece parla piano si sente la compressione più che la saturazione. Lo so già. Vabbè, è normale. Dai, gioca. Gioca giù. Appa, dai. Ma cos'è un vecchio CB quello che è entrato? Ma dalla macchina stava modulando. Ma vecchio però, vecchio. Da quando sono entrato io c'è Bruno. Forse anche prima di me, non lo so. Comunque il periodo lì ce l'ho io, là. Minimo per 40 anni, minimo. Se non di più pure. Capa, ma cosa non stava più modulando, non stava già? No, e quando lavorava non modulava più, adesso che è in pensione si avrebbe messo tutto. Se l'ha tornato a rimettere? In macchina, però a casa ha detto che ci deve pensare per il condominio, per tutto. Vabbè, uno alza la buona e se ne affutti così, ancora arrivate. Avete un'antenna leggera e già non le rompe le scatole nessuno. Ma lui ha dei problemi perché deve entrare in casa di un'altra persona. Non è che ci sia tetto e cose, c'è la terrazza di questa persona e le deve chiedere la cortesia di farlo passare in casa sua e salire sul tetto. Scappa, non penso che gli dica di nonno. Io ho messo tutto di sì. Che? Bru. Sai cos'è? Che non li conosco molto bene questi signori, è un attico, capito? Deve proprio entrare dentro casa loro. Cioè gli deve mettere l'antenna dentro casa, non c'è un tetto con le altre case, dove lo prima era una paglia. Questo è un attico, è tutto aperto, c'è dentro casa loro. Che cazzo fai oggi? Devo mettere l'antenna dentro casa tua. Vabbè, dilli che devi mettere un'altra televisione fuori, lì nella l'antenna nuova del televisore, dilli tu. Gliela fa anche vedere, tanto funziona, ma a te, se mi vedi il canale. Non lo sai che l'antenna CB funziona anche nel televisore? Sì, ma comunque tra l'altro numero anche di quello che grandette, la piazza sul balcone, vediamo cosa succede. Sono arrivato in garage, ok, sono un po' sento più perché è sotto, due piani sotto terra. Ci sentiamo, andiamo a terra, ok. Ciao, sempre fortissimo, sempre 9.30 qua arriva, deve essere che si chiami più vicino, 9.30 sempre sì. Ma dai, buona serata, ci sentiamo, dai. E da sabato me l'ho chiesto anche io in macchina, quindi almeno facciamo i furibondi. Che? Sera, ciao Giada, ciao Bruno, sono sotto un saluto Bruno. Ciao Bruno, ben sentito, comunque ci sentiamo una settimana. Ok, ciao Antonio, ciao Gianni, sono per un saluto. Riprendi Bruno, ciao. E sono io, ciao Bruno. Marino, buonasera. Stiamo facendo un accesso per cui portate il segnale molto più basso. Ok. Ci sentiamo Mari, mi sto ritirando, devo fare l'antenna, ok. Ciao. Vai tranquillo Bruno, vai tranquillo, ti ascolto bene comunque, dai. Ok, ciao, a presto, ciao Bruno. Ciao a tutti, ciao, conosci per me, ciao. E solo per un saluto, ciao, riprendi. Ciao Marino, ciao a tutti, la sentire anche io che stanno a portare il cane, dai. Ci sentiamo, ti ha salutato, la senti? Ma cappa, l'abbiamo sentito tutti, dai. Cappa. Se ci mette la boomerang, quella grande, c'è a posto, già esce, con quella lì. Là si va in gaga, ma con quella già esce bene. Tu sempre 9.10 qui a Ottavo, 9.10 e 9.5, non preoccuparti. E io sono ti arrivo. Tu sei quasi 9.20, ho già. Radio 5, Super 5. Va bene, mi dispiace lasciarmi, però devo andare, il cane c'ha già abbronzolato e vuole scendere, e lui me lo fa capire quando deve andare. E quello è l'ultimo avviso. proprio un saluto, anch'io sto chiudendo e mi stanno chiamando. Benissimo, ciao Gianni, ciao Antonio, ciao anche Bruno se stai ascoltando. Saluto a tutti gli ascoltoni, QRT per me. Alla sento. Kappa, ciao Maria, dai, ce la risentiamo, vai. Alle prossime, ciao ciao. Ciao a tutti, Gianni, dai, a tutti quanti. Ciao a tutti, ciao.